trovato e ti ho perduto in un istante. E ho lavorato duro per ricominciare. Non eri solamente acqua trasparente. Giocare sporco era il tuo modo per tenermi qui. È stato facile abbassare le difese e fare finta di volermi meno bene. È stato come mille notti senza luce, invece eri tu. Ci sono cose da dimenticare, ci sono spazi vuoti da riempire. Tutte le volte che non hai capito il tempo sprecato. Tutte le stelle che non ho mangiato, silenzi che non hai sentito, per ogni volta che ti sei tradito, il tempo sprecato con te. Le parole dette sempre sottovoce hanno il peso di un amore che non vale. Io volevo solo essere felice, magari insieme a te. Ci sono cose da dimenticare, ci sono spazi vuoti da riempire. Tutte le volte che non hai capito il tempo sprecato. Tutte le stelle che non ho mangiato, tutti i silenzi che non hai sentito, per ogni volta che ti sei tradito, il tempo sprecato con te. Non ho bisogno di ricordi, adesso so che non ti voglio qui. Non ho paura di lasciarti andare via, perché non è mai troppo tardi per imparare dagli sbagli. Adesso è tempo di rialzarsi. Sono cose da dimenticare, ci sono spazi vuoti da riempire. Tutte le volte che non hai capito, il tempo spreco.